a fianco a me. Di sicure chi sa muove, con mi sa sicure me. Oh, vita mia, oh, il cuore, questo cuore, che è stato, oh, prima amore, e un prima e l'ultimo sarai per me. Notte non temevo, non ti senti in tanti braccia, non ti vado che sta faccia, non ti stregna forse indietro a me. Ma se t'hanno ne atti sonne, me fai piangere per te. Viva sempre sta contenta, io non voglio cadere sola, no pensiero me consola, ma tu pure piange solo a me. Ah, più belle cose belle, non è mai più belle di oh, il vivo, il vita mia, oh, il cuore, che sto cuore, sei stato, oh, prima amore, e oh, prima e l'ultimo sarai per me.